Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Eufrasio Anghileri, quattro generazioni di acciaio, di Marco Subert. Abbiamo sempre creduto nel restare attenti a quello che era il lavoro delle generazioni precedenti e restare concentrati sul tema dove abbiamo sempre maturato l'esperienza più importante. 400.000 tonnellate di acciaio all'anno, 9 stabilimenti, 200 milioni di euro di fatturato. Questi i numeri del gruppo Eusider, centro servizi attivo dal 1979 nella lavorazione e commercializzazione di prodotti siderurgici nel Lecchese, a Costa Masnaga. Quella della famiglia Anghileri, nella lavorazione dell'acciaio, è una storia che inizia quasi un secolo fa. Mio nonno inizia nel 1920, si chiamava Eufrasio, eredito il suo nome di Eufrasio, e ho trovato delle pubblicità in cui appare la denominazione Eufrasio Anghileri, legno, carbone e acciaio. Da lì, conseguentemente, i figli di mio nonno, tra cui ovviamente mio padre, hanno sviluppato l'azienda tralasciando il legno e il carbone per concentrarsi sempre più nella commercializzazione dei prodotti siderurgici. Eufrasio Anghileri, 56 anni, rappresenta la terza generazione della famiglia, una famiglia con quasi un secolo di esperienza nella lavorazione del ferro. Ma Eufrasio e il fratello Antonio, insieme a un terzo socio, nel 1979 decidono di mettersi in proprio fondando Eusider. La compagine familiare è diventata numerosa, penso che sia un'esperienza abbastanza comune a molte famiglie, e quindi quando il numero delle persone è eccessivo forse prendere decisioni diventa troppo difficile. Da qui la scelta di creare una società a parte. Nel 1979 mio fratello, che è l'attuale presidente Antonio, e il sottoscritto insieme ad Angelo Carcianigo abbiamo deciso di costituire Eusider, che in questi 30 anni si è sviluppata concentrandosi e non diversificando mai quella che è la vocazione, appunto la distribuzione di prodotti siderurgici sul territorio, diciamo soprattutto del nord e centro Italia, per estendersi poi anche un po' nel sud dell'Italia. Gli inizi sono quelli di un'azienda piccola, ma la crescita di Eusider, dalle 4 persone del 1979, porta a un presente che il suo fondatore descrive così. I primi passi sicuramente difficili, però nel 79, nell'80 abbiamo vissuto anche degli anni che io ricordo come positivi. La domanda c'era, la crescita c'era, ovviamente non mancava l'entusiasmo e l'impegno, ma posso dire che i primi anni li ricordo come anni di grande entusiasmo e con voglia di fare. Eravamo una piccola azienda, siamo partiti in 4 persone e quindi tutto sembrava così una appassionante avventura. Oggi Eusider dà lavoro a 130 persone, svolge la propria attività su 9 depositi, tutti situati nel nord Italia, fattura circa 200 milioni di euro e sta facendo degli investimenti per continuare lo sviluppo. Non abbiamo mai pensato di diversificare, anche se questo termine è di moda e siamo stati magari in alcuni momenti della nostra vita imprenditoriale sollecitati a farlo. Abbiamo sempre creduto nella concentrazione sul quello che viene definito il core business e nel restare attenti a quello che era il lavoro delle generazioni precedenti e restare concentrati sul tema dove abbiamo sempre maturato l'esperienza più importante. Quindi commercializzazione di prodotti siderurgici, possiamo per semplificare dire che siamo un supermercato dell'acciaio dove il cliente può accedere in un giorno lavorativo a quel prodotto che la produzione può vendere dopo circa 60 o 90 giorni di tempo. Dopo un periodo iniziale passato a farsi conoscere, arriva la svolta nella storia dell'azienda. Finalmente, anziché andare alla disperata ricerca di fornitori che ci vendessero acciaio, dopo i primi 7-8 anni ci siamo fatti conoscere e finalmente, ecco, cominciavamo a ricevere da parte dei fornitori proposte di acquisto, venivamo invitati alle aste, venivamo invitati alle quote che ogni trimestre le acciaierie mettono sul mercato. Forse la svolta è stata quella di capire che venivamo tenuti in considerazione sempre di più col passare degli anni. Il fornitore principale di Ausider è l'Ilva, l'industria estrattrice nazionale e uno dei maggiori produttori europei. Ma anche i fornitori esteri, sparsi tra Cina, India e Sud America, hanno un ruolo essenziale. Il prodotto tipico che arriva dalla nostra azienda è il coil, che è un rotolo di acciaio in varie larghezze, in vari spessori, in varie qualità. Da questo rotolo noi ricaviamo o dei fogli di lamiera, cosiddetta spianata, o dei nastri, e questo vuol dire rendere a misura idonea al consumatore finale ciò che l'acciaieria produce in dimensioni standardizzate. È questo il valore aggiunto che dà il centro di servizio e in questo modo noi raggiungiamo appunto le varie aziende che necessitano di un prodotto già finito per entrare in produzione. Oggi Eusider ha nei suoi magazzini una giacenza media di 150.000 tonnellate di prodotti siderurgici, distribuiti su una superficie di oltre 210 metri quadri. Tra i problemi principali per lo sviluppo dell'azienda c'è proprio quello legato alla necessità di avere grandi spazi a disposizione per lo stoccaggio. Abbiamo cominciato a sentire l'esigenza di spazi maggiori in cui sviluppare il nostro lavoro e quindi il primo dei problemi è stato quello proprio di trovare delle aree sufficientemente grandi per svolgere la nostra attività, che esige spazi appunto importanti, dato che il ferro e i coils in prima voce esigono, sono voluminosi, quindi esigono spazi importanti. Ecco, lì abbiamo cominciato a scontrarci con quella che possiamo con un termine ampio definire la burocrazia italiana, e quindi tutte le difficoltà nell'avere le licenze per costruire, poi poter costruire, poi poterci ampliare. Ecco, se devo pensare al primo vero, tra virgolette, ostacolo da superare, è stato questo. Il principale consumatore di acciaio del mondo è l'industria automobilistica, ma l'acciaio è dappertutto. Elettrodomestici, cantieristica, la grande carpenteria. Con una posizione a metà tra le grandi aziende produttrici e le aziende che utilizzano prodotti siderurgici, le ripercussioni della crisi si sentono. È vero che negli ultimi due anni, dopo che per molto tempo ho detto nella nostra zona del Lecchese, del Nord Italia in generale, non abbiamo mai sentito parlare di crisi e questa non ci ha mai sfiorato, negli ultimi due anni devo ammettere che anche noi abbiamo nel 2009, nel 2010 che si sta ultimando, abbiamo sentito il peso di questo momento veramente difficile, quindi abbiamo subito una contrazione delle vendite e sentiamo una domanda pesante, una domanda più debole e molti clienti in difficoltà per appunto mancanza di lavoro, mancanza di programmazione, mancanza di commesse, e quindi stiamo vivendo anche noi questo momento che è durato già troppo a lungo e speriamo che finisca presto. Per il futuro però si sta organizzando la razionalizzazione e lo sviluppo. Sì, la nostra azienda oggi si sviluppa su 9 sedi, il che vuol dire un dispendio di energie e dei costi sicuramente moltiplicati. Il nostro progetto, che è un sogno che spero si possa realizzare, è quello di unificare in un'unica sede queste varie sedi, concentrarle in un unico luogo per ridurre i costi, ottimizzare le lavorazioni e avere più sotto controllo la gestione della società. Questo progetto si sta sviluppando, abbiamo già trovato un'area adeguata a poter riassumere le nuove sedi esistenti. Aspettiamo anche qui i permessi e le licenze per poter iniziare la costruzione, e questo è il passo più importante dei nostri investimenti futuri. E nel futuro c'è anche il passaggio alla prossima generazione della famiglia, la quarta. Mio figlio Giacomino è già in azienda da circa 2 anni, dopo aver svolto gli studi al liceo e all'università, ha fatto degli stage in acciaieria e poi è entrato direttamente in Usider, quindi questa è la quarta generazione nostra che si dedica all'acciaio. Vedo che mio figlio si è inserito con semplicità, con facilità. Spesso i ragazzi con cui faccio dei colloqui mi chiedono qual è la laurea che mi permetterebbe di essere assunto da lei, qual è il ciclo di studi, e io rispondo: non è essenziale una laurea in ingegneria o in filosofia, è essenziale voler fare bene il proprio lavoro con entusiasmo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.